24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 18 minuti e 48 secondi inizia la terza parte di 24 Mattino di questo mercoledì 19 febbraio. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno e buongiorno Maria Latella. Buongiorno Simone, ciao a tutti coloro i quali ci ascoltano. 349, sì. Che ci possono raggiungere al 349-238-6666 per sms, messaggi su WhatsApp, anche audio. Cara Maria, tra poco parleremo di siccità, poi incontreremo, cioè parleremo con il ministro degli affari europei Enzo Amendola, e però prima ti voglio portare su un tema che ha animato il dibattito tra i nostri ascoltatori ed è questo sondaggio del Messaggero, secondo il quale un italiano su sei, se alla domanda, tra quelli che hanno figli ovviamente, alla domanda se rifarebbe i figli, risponde di no, non li rifarei. Ovviamente sono arrivati molti messaggi su questo, posto che qualche ascoltatore ci dice addirittura, guardate che una risposta ad un sondaggio, se potessero dirlo veramente sarebbero uno su tre. Io non ci credo tanto a questa cosa, però no, ti faccio sentire, ti faccio sentire un paio di ascoltatori. No, e poi ne parliamo un attimo. Io, se dovessi dar retta all'ottimismo della volontà, ne farei altri di figli sicuramente, ma vince il pessimismo della ragione. In quale mondo li lasciamo questi figli? Che futuro gli stiamo preparando? Se sei genitore non è un problema essere lavoratore, il problema è se te ne approfitti. Esistono anche le babysitter, il lavoro non ha solo diritti, ha anche doveri. E vabbè, no. Io penso che sia una questione di solitudine, Simone, perché ne abbiamo parlato tante volte, ne ho parlato anch'io a Nessuno è perfetta la settimana scorsa, proprio ispirandoci anche al bel film di Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi, Figli, a proposito andate a vederlo perché si ride e si pensa, però non è solo un problema, come diciamo sempre, ed è fondamentale, no? Di asili nido e di aiuti nei primi anni dei figli piccoli, quando ti si sconvolge la vita. Il problema è che il genitore si sente solo in tutto il suo percorso. A me ha molto colpito, dolorosamente colpito, il grido di dolore di quella mamma che ha perso il figlio anoressico e ha detto: noi eravamo soli, nostro figlio maggiorenne ha potuto andare via dalla comunità perché c'è questa assurda norma per cui un ragazzo che vive dei problemi enormi, appunto come l'anoressia, a un certo punto può dire sì, me ne vado dalla comunità, nessuno lo può fermare, e i genitori erano soli, hanno combattuto a mani nude e hanno perso quella battaglia. Allora, io sì, capisco, in tanti dicono come si fa a mettere al mondo un figlio nella dimensione della paura, Maria, eccetera, precisiamo, però precisiamo, ci sono anche delle altre cose. Sì, dico, precisiamo, maggiorenne è il ragazzo naturalmente, no, cioè ma stiamo parlando detto di che questo. Perché maggiorenne ma malato, sì. Capito? E i genitori non hanno potuto fare niente, come l'ho già detto, maggiorenne. Quindi la preoccupazione del diventare genitore non è solo legata al fatto che poi devi spendere un sacco di soldi in pannolini o per due anni non esci la sera. Io penso che tanti trentenni sarebbero felici di affrontare anche questo sacrificio. Non sono tutti narcisi e concentrati sulla pericena. Il problema è che poi sanno che il loro percorso sarà un percorso di solitudine, perché i problemi non finiscono con i bambini a 3 anni, cominciano con i ragazzini a 13. Questa è la sensazione. Detto Maria, che lo dice uno che di figli ne ha 3, che non c'è nulla di male e non c'è necessariamente nulla di narcisistico nel decidere di non fare figli, cioè, perché poi ci vuole anche un filo di rispetto nei confronti delle persone che decidono serenamente: io di figli non ne voglio avere perché mi voglio vivere la mia vita in questo modo e senza figli. E appunto, massimo rispetto anche. Sono sempre, sono sempre di più, però è un dato che bisogna tenere presente, per carità, so. Come diceva Eva Cantarella, è un problema, però non è che queste persone si possono far carico del problema demografico italiano, no, come diceva figli alla patria, dai, Eva Cantarella, la grecista, famosa grecista: si sono estinti i sumeri, si estingueranno pure gli italiani. oppure i terrestri, chissà che ne pensa Luca Mercato Percalli, presidente della Società Meteorologica Italiana, si occupa di ricerca sulla storia del clima e dei ghiacciai delle Alpi. Con lui parleremo tra un attimo di siccità, ma secondo me ha qualche idea anche sull'estinzione degli esseri umani, mi sa. Mercalli, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Che dice? C'è una relazione. Io di figli non ne ho e ritengo che su questa terra purtroppo siamo così tanti che stiamo per mandare in bancarotta il sistema naturale, quindi bisognerà trovare il modo di avere un limite stazionario, quindi bisogna fermarsi a un certo punto e questo è il problema. Non Mercalli, possiamo pensare di continuare a riprodurci in un l'Occidente mondo dalle risorse limitate. Guardi, non bisogna comunicarlo all'Occidente. Le donne e gli uomini in Occidente hanno già smesso di procreare. Benissimo, quindi... benissimo. Questo infatti è un ottimo risultato. Basta non incentivare di tornare a farne di nuovo. In Italia siamo 61 milioni su 301.000 chilometri quadrati, stiamo già strettini. Va bene così, anzi, aspettiamo che un po' di anziani pian piano diminuiscano e a questo punto ritroviamo un equilibrio dove si stia bene anche rispetto alle risorse ecologiche. Noi in Italia ricordo che viviamo 4 volte al di sopra delle risorse che abbiamo. Eccoci qua, Mercalli, mi sa che adesso si scatenerà l'inferno. Allora però vogliamo riportarla un po' sul tema per il quale l'avevamo chiamata, anche se lo spunto è interessante e ci piace. Allora, Mercalli, siccità. Sono 2 mesi che sostanzialmente non piove, o piove pochissimo in gran parte del paese. E è nevicato pochissimo, Mercalli, no? Ma è nevicato molto in alta quota in autunno, per cui fortunatamente sopra i 2000 metri si è formato un bel manto nevoso. Ricorderete le sciroccate che hanno portato l'acqua alta drammatica a Venezia a metà novembre, inizio dicembre. Ecco, quello lì ha prodotto un buon manto nevoso in alta quota sulle Alpi. Poi non è più nevicato praticamente per 2 mesi. Ora la siccità è in atto. Non è ancora così preoccupante, nel senso che in genere la primavera in Italia porta quasi sempre pioggia, quindi abbiamo visto molti inverni dove a una situazione di siccità spinta tra gennaio, febbraio e inizio marzo, poi tutto si è riequilibrato tra aprile e maggio. Voglio dire che abbiamo ancora delle carte da giocare, non è ancora una situazione senza ritorno. Senta, il problema è quando Mercalli... la siccità prosegue per l'estate, allora ecco, lì sì che diventano. Il punto volendolo vedere anche da una prospettiva, non dico ottimista, ma che guarda al futuro. Ora, noi sappiamo che la grande sfida, parliamo di agricoltura, è l'agricoltura di precisione, nel senso che occorre per forza coltivare e produrre di più, proprio per le ragioni di aumento della popolazione della quale lei parlava prima. Secondo le Nazioni Unite, le produzioni agricole dovranno raddoppiare entro il 2050. Allora, è proprio il problema di fondo, è questo continuo dire dobbiamo fare di più che ci frega sempre, perché dobbiamo fare di più e non agendo sulla causa, cioè dobbiamo essere di meno, è chiaro che mandiamo il sistema. Beh, conseguenziale con quel che ci ha detto prima Mercalli. Infatti, insomma. Però se noi facessimo un uso delle tecnologie, come ormai si fa, no? Anche per l'agricoltura, la rivoluzione è l'agricoltura di precisione. Allora, la mia domanda è: quanto i droni, le immagini satellitari che aiutano a capire come si sta sviluppando una cultura, i dati che arrivano in tempo reale alle macchine agricole, ecco, come tutto questo, Mercalli, può limitare i danni di un, per esempio, di una siccità prolungata? Ma in qualche caso, quando l'acqua c'è, almeno la si può distribuire con cura con queste tecnologie. Il problema è che quando l'acqua non c'è, non è che il drone ti può aiutare. Alla fine l'acqua manca e basta. Quindi diciamo che tutti questi mezzi tecnologici possono ottimizzare l'uso della risorsa. Attenzione, che io non vedo mai i dati di ritorno energetico dell'investimento. Voglio dire, è vero che da un lato magari miglioriamo la produttività di un terreno, ma quanto abbiamo speso in termini di energie e materie prime per costruire questi aggeggi, cioè il drone, la plastica che mettiamo in campo, come la ricicleremo quando è finito il suo uso? Cioè spesso si guarda sempre una piccola fetta del però processo l'agricoltura di precisione non lo si guarda mai nel suo complesso. L'agricoltura di precisione punta proprio a utilizzare meno terra, meno acqua, meno chimica. Punta a usare più risorse in termini tecnologici, cioè, cara mia, il drone non lo fa mica con la pasta di mandorle, il drone è fatto di materiali estremamente pregiati, terre rare, batterie agli ioni di litio, fibra di carbonio, metallo, plastica. Ma se serve per risparmiare acqua, che è prezioso, forse il gioco vale la candela. Quell'altro materiale non è ancora più prezioso, l'acqua bene o male arriva, cioè, dal cielo. Il punto è, Mercalli, dice lei, è un, Mercalli, quello che dice lei è un sistema nel quale tutto si tiene e quindi certo. dove crei da una parte, togli dall'altra. Bisogna sempre fare un bilancio totale, lo si fa con una procedura che si chiama LCA, Life Cycle Assessment, cioè l'analisi del ciclo di vita dei materiali e dei processi, dall'inizio, da quando viene estratto in una miniera un materiale, fino a quando si trasformerà in un rifiuto. In mezzo c'è l'agricoltura. Il tutto avrà un altro indice che si chiama ROA, Energy Return on Energy Invested, cioè quanta energia ho messo nel processo e quanta ne ho recuperato, anche in termini di pomodori alla fine, sono energie anche loro. Ma se non spendo di più per fare gli aggeggi di quella che tiro fuori, forse alla fine il bilancio non funziona. Ma forse però, e mi scusi, non sono proprio d'accordo con lei su questo, forse però possiamo anche immaginare un'Italia dove l'agricoltura è magna pars, che dia occupazione e occupazione di qualità, perché oggi... Ma va benissimo, ma siamo sempre lì, per non gestire fate i conti con l'oste. A me manca sempre la parte di rapporto. Allora che facciamo? Torniamo alla vanga? Cioè niente droni, torniamo alla vanga? All'aratro coi buoi? Ma vede che lei estremizza. Allora, adesso abbiamo un'agricoltura che funziona in un certo modo e consuma X. Io posso ottimizzarla risparmiando su certe cose, ma non è detto che l'usare aggeggi nuovi ci porti a un miglioramento complessivo ambientale. È chiaro, i conti si fanno in kilowattora, in tonnellate di materiali estrattivi e in rifiuti prodotti. Questo è il numero. Tutto il resto è wishful thinking. Ascolti Mercalli, tornando a bomba, quello che ci ha detto prima, perché poi abbiamo anche la situazione contingente, no? Il momento italiano della scarsa pioggia. Che la scarsa pioggia in questo momento sono le temperature elevate. Abbiamo appena chiuso praticamente l'inverno più caldo della storia in Italia e il problema sono le fioriture anticipate. Abbiamo gli albicocchi, abbiamo i mandorli, abbiamo un sacco di piante da frutto che stanno fiorendo con circa un mese di anticipo e questo le rende vulnerabili alle possibili gelate che in una stagione che non è ancora avanzata possono benissimo tornare nel mese di marzo. Quindi per il momento non c'è ancora da preoccuparsi troppo. Per l'acqua direi di no, per l'acqua abbiamo ancora possibilità. Per le temperature no. Invece siamo già nel problema, siamo già dentro il problema, perché abbiamo un mese di anticipo sulla vegetazione. Allora, Luca Mercalli, grazie, grazie anche per la provocazione. Guardi, ha scatenato la qualsiasi tra i nostri ascoltatori. Momento maltusiano. Grazie Luca Mercalli per essere stato con noi. Buona giornata. Con le quantità fisiche, perché sono quelle che comandano. Sì, di esseri umani, dice? Certo, naturalmente. Le quantità fisiche sono quelle che comandano tutto l'universo e anche gli esseri umani. Grazie. Allora, secondo lei gli allarmi sul fatto che l'Italia diventa sempre più vecchia sono ingiustificati? No, io lascerei tutto così per scendere un pochino di numerosità. La nostra taglia media, quando fossimo 50 milioni, sarebbe meglio che 61. Quindi non è un allarme, ma una buona notizia. Grazie ancora, grazie, Luca Mercalli. Buona giornata. Le auguro una buona giornata. Ci ritroviamo tra un attimo. Parleremo con il ministro Enzo Amendola. Torniamo alle cose un po' più di politica, non solamente di politica, anche di Europa e via dicendo. A tra poco. Mattino. Ed eccoci di nuovo con alcuni di voi che propongono Luca Mercalli al Ministero della Famiglia. Vabbè, dai, niente male. Enzo Amendola, ministro degli Affari Europei, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Ci siamo. Maria, prego. Buongiorno, vai. Ministro. Buongiorno. Mi permetterà di farle una domanda prima sul governo e poi parleremo anche appunto di Unione Europea e delle importanti decisioni che riguardano il nostro paese che si prendono in questi giorni. Stamattina, leggendo i giornali, e lo faceva anche Simone Spezia con Paolo Mieli prima, abbiamo appreso che due parlamentari, una deputata e un senatore, hanno deciso di aderire a Italia Viva. Allora, lei, la Michela Rostan, aveva lasciato prima il Partito Democratico proprio in polemica con Renzi ed era andata all'EU, adesso torna. Invece Tommaso Cerno, che è un giornalista, è stato eletto con i voti del Partito Democratico, ora passa a Italia Viva, ma prima aveva votato con il Movimento 5 Stelle per la NOTAV. Le chiedo, ma che messaggio arriva da questi cambi continui di casacca, anche un po' schizofrenici? Una prima se ne va dal partito contro Renzi, poi torna con Renzi, cioè è una maionese impazzita. Lei sente la responsabilità come politico del messaggio che state, non lei personalmente, ma in generale, questi parlamentari danno all'opinione pubblica? Beh, non è una novità, purtroppo nella realtà politica italiana succede, è successo molte volte in passato e sta succedendo tuttora. È dovuto alla nascita di nuovi partiti, dei movimenti che si creano in Parlamento. Sì, ma senza alcun bisogno di coerenza, una se ne va in, diciamo, in rottura con Renzi e poi torna con Renzi. Ma la coerenza io non posso insegnarla a nessuno, quindi ognuno è responsabile delle sue scelte, deve rispondere di quello che fa. Si figuri se mi metto a sindacare la coerenza degli altri. Certo, non è comunque una situazione, la conosciamo, questa legislatura nasce anche sotto delle stelle abbastanza particolari, e quindi è successo lungo tutto il corso degli ultimi due anni movimenti del genere, e ognuno deve rispondere ai suoi elettori di quello che fa, chi ha preso voti nel collegio, chi si è fatto eleggere sotto le insegne di un partito e poi le cambia, e deve risponderne. Ma io onestamente sindacare la coerenza degli altri mi sembra un po' troppo arduo. Veniamo a Mendola, poi insomma magari può darsi che un filo di altre domande politiche ci sia, però verrei a quello che è il suo mandato. Appunto, lei è ministro degli affari europei, ieri tra l'altro c'è stato il tavolo per uno dei famosi tavoli per l'agenda 2023 della maggioranza, per appunto per il prosieguo della legislatura, nel quale si è parlato in questo tavolo appunto di Europa. E là veniamo, no, a questo governo che nasce con insegni un po' particolari, perché da una parte ci siete voi del Partito Democratico, dall'altra il Movimento 5 Stelle, che nasce come un movimento euroscettico. Insomma, anche qua la sintesi diventa complessa, no? No, invece proprio sull'Europa c'è stato il primo aggancio, tra virgolette, tra le forze che hanno costituito questa coalizione. Cioè al momento in cui si è deciso di sostenere la commissione di Ursula von der Leyen, le forze politiche che attualmente compongono il governo hanno scelto una strada di sostegno a un cambiamento dell'Unione Europea, altre invece che sono all'opposizione legittimamente hanno scelto di essere contrari, e quindi il discrimine forse sul vincolo europeo è molto chiaro. Non a caso ieri al tavolo c'è stata concordia su quelle che sono le scelte, innanzitutto un bilancio europeo che discuteremo oggi in Parlamento e poi giovedì e venerdì al Consiglio straordinario a Bruxelles, che reputiamo non adeguato a quelle che sono le sfide proprio della Commissione. Abbiamo discusso di Green New Deal, che è il grande progetto che si sta sviluppando tra i 27 paesi, nella conferenza sul futuro dell'Europa, le trattative che dovremmo fare in ambito di immigrazione, in ambito di ricostituzione di un fondo della difesa europeo, il digitale, cioè tutte le grandi trattative, le più di 50 proposte di legge che la Commissione farà nei prossimi due anni. Su quello io posso dire, al netto di tutto quello che si legge sui giornali, che il clima e anche il lavoro e i documenti che stiamo sviluppando insieme nella coalizione sul tema delle trattative europee è abbastanza sereno. E uno dei temi che tiene banco in Europa e fa sì che per esempio un po' in tutti i paesi, inclusa la Germania, salga la presenza di movimenti populisti come Alternative für Deutschland, è il tema della migrazione. Ora io vorrei capire, Ministro, che cosa si sta decidendo rispetto alla Libia, perché abbiamo letto che si sostituisce l'operazione Sofia, che era nata nel 2015 ma è stata depotenziata nel tempo, con un'altra operazione che però in questo contesto nasce per far rispettare l'embargo sulle armi in vigore in Libia. Poi si dice, tutti dicono, ah, bisogna rivedere i trattati di Dublino, quelli per i quali l'Italia si è fatto carico quasi da sola del problema dei migranti. Che cosa si sta pensando, che cosa si sta decidendo in Europa questo tema? Distinguiamo i due piani. Sulle questioni di una gestione strutturata dei flussi migratori, il negoziato che è partito con il vicepresidente Schinas e la commissaria Johansson, che si svilupperà da qui a due mesi quando la Commissione avanzerà una proposta, riguarda ovviamente un nuovo regolamento sull'asilo e un nuovo regolamento su Dublino, cioè quello che sono le indicazioni generali per quanto riguarda i flussi migratori e la gestione sicura e solidale dei confini, che significa nuove strumentazioni per quanto riguarda gli ingressi, per quanto riguarda i rimpatri assistiti, i corridoi umanitari. Cioè il negoziato che si sta facendo adesso con il Ministero degli Interni, con la Farnesina, a livello di Commissione Europea, è una riforma generale di tutte le politiche sull'immigrazione che non hanno funzionato, perché è evidente non solo ai paesi di primo approdo ma anche di movimenti secondari che non funziona un dibattito come l'abbiamo sviluppato negli ultimi anni, che non è né solidale e né nemmeno ha una gestione sicura di quelli dei confini. C'è un dibattito che stiamo facendo e faremo anche nel bilancio, perché ovviamente ci vogliono fondi per gestire questa politica. Mi scusi, Amendola, però io capisco la premessa, però in sostanza... In sostanza stiamo trattando con la Commissione per cambiare i regolamenti che riguardano l'asilo, le politiche di asilo e le politiche che lei citava sotto il nome Dublino, perché se non c'è quello non si riesce nemmeno a reggere un sistema di entrate e di uscite che sia concordato tra i 27. C'è il tema di Frontex e la funzione di questa agenzia che dovrebbe gestire i confini e gestire tutta quella che è una guardia di frontiera europea. Questo è un primo tema che stiamo negoziando proprio in queste settimane, che da qui a marzo la Commissione avanzerà su cui la Commissione avanzerà una proposta. Il secondo piano è quello relativo alla Libia, ma quell'operazione decisa dai ministri degli affari esteri lunedì scorso è relativa all'embargo. Noi abbiamo avuto la conferenza di Berlino per riavviare un processo di pace e stabilizzazione in Libia e sappiamo che il primo e prioritario problema sia quello di fermare il conflitto. Per fermare il conflitto l'embargo sulle armi è necessario. Per questo si è scelto di creare una nuova operazione militare su cui stanno discutendo i dettagli ovviamente tecnici e operativi, che è dedicata al traffico, a fermare il traffico di armi e di interferenze, chiamiamole così, tra i due soggetti che sono da aprile scorso in conflitto. C'è stata anche una risoluzione delle Nazioni Unite, quindi i ministri degli affari esteri del 27 si sono uniti nel decidere di dar via a una nuova operazione militare che abbia un mandato ben chiaro. Quindi io distingo i due piani, perché su quello che c'è da fare a livello di Europa per l'immigrazione è superare un conflitto che abbiamo avuto negli ultimi due anni, e per farlo bisogna arrivare a un accordo e lo stiamo trattando proprio in queste settimane. Sulla Libia adesso la priorità, per questo si dà vita a una nuova operazione che supera Sofia, è quello di fermare il traffico di armi che da aprile scorso ha determinato un crescendo di attività militare. Una pausa. Mattino. Prego Maria. Ministro, mi sembra importante che la Germania abbia chiesto all'Italia di coinvolgersi nel gruppo ristretto che con Londra e Parigi dovrebbe gestire la questione libica. Insomma, la Germania ci offre una sponda, è così e perché? Ah, perché dopo Berlino si è visto, o prima e dopo la conferenza di Berlino, questa di gennaio, per riagganciare una politica estera comune europea sulla Libia, si è visto che per fortuna l'agenda dei principali paesi europei, la Germania che ha organizzato la conferenza, la Francia, l'Inghilterra che anche non essendo più un membro dell'Unione Europea ha comunque in termini di sicurezza, di Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, una sua forza specifica, si sono uniti in un percorso comune. Questo è un dato positivo, che guardando quello che è successo negli ultimi due anni anche sulla Libia, è una novità. Proprio la deficienza di una politica comune europea ha fatto sì che altri attori non appartenenti all'Unione, penso alla Turchia, alla Russia, abbiano sviluppato una presenza molto più determinante in Libia. Allora, noi abbiamo un'agenda comune, i paesi principali europei lavorano e cooperano insieme. Primo obiettivo ovviamente è salvaguardare la tregua, bloccare il traffico di armi, spingere a quelli che sono i dialoghi che si stanno sviluppando a Ginevra tra le due opposte fazioni sulla tregua e sull'assetto militare, e ricostruire un filo di dialogo politico. Un buon segnale è stata la risoluzione delle Nazioni Unite, sostenuta proprio dai membri europei del Consiglio di Sicurezza, e quindi noi su questa strada dobbiamo continuare, evitando di fare quello che si è fatto in passato, cioè una conferenza, una riunione e poi niente che si sviluppa per la stabilizzazione del paese. Invece il percorso dalla conferenza di Berlino, l'ultima è stata la riunione di domenica scorsa a Monaco, sembra più stabile, sembra più compatta, e i principali paesi europei si muovono in coordinamento. E questo è un fatto, secondo me, rilevante. Oggi il Presidente del Consiglio Conte interverrà in Parlamento e domani si apre il Consiglio Europeo. C'è il tema del bilancio europeo, che in questo momento scontenta tutti, Amendola, no? La dimensione del bilancio europeo, mi sembra, anche i contenuti, tutto sommato. Se ne arriva una o, insomma, perché sembra che le divisioni si stiano approfondendo? Ma prima di una trattativa ovviamente ognuno dei 27 paesi fa leva sul proprio interesse nazionale, quindi mette innanzitutto la propria agenda. Noi come Italia abbiamo fatto un ragionamento un po' diverso, perché ovviamente... Che poi su questo ovviamente potremmo discutere a lungo, Amendola, perché in realtà quel che dovrebbe essere è altro, insomma, no? Però prego. No, ma noi abbiamo fatto un discorso abbastanza semplice. C'è una Commissione europea che ha lanciato un Green Deal, che è una politica di investimenti per la transizione a un'economia sostenibile, che ha un impatto nelle cifre enorme, parliamo di 100 miliardi all'anno. Abbiamo una priorità che è quella di costruire un'Europa digitale, quindi legarci a quella che è la rivoluzione tecnologica in corso, sfide come quelle di una difesa comune, di tante politiche, l'immigrazione, tante politiche. Bene, di fronte a tutto questo la proposta del bilancio che ci è stata presentata ci sembra inadeguata, ma non solo per alcune nostre richieste di politica nazionale, di interesse nazionale, ma proprio perché è inadeguata a tutto quel monte di ambizioni e di sfide. Quindi il ragionamento che abbiamo già avanzato lunedì a Bruxelles e su cui si inizierà a trattare domani è: vuole l'Europa coniugare la realtà dei fatti, che sappiamo anche abbastanza turbolenta intorno ai confini europei, mi riferisco alla competizione commerciale, ai dazi, a grandi emergenze anche come quella sanitaria, oppure vogliamo avere un bilancio che sia minimale, frugale e che non abbia assoluto impatto? Questo è il discorso che alcuni paesi come l'Italia e altri stanno avanzando in maniera seria e serena. Non parliamo ovviamente, per non citare il Parlamento europeo che ha già detto di no a questa proposta, quindi creando anche una difficoltà tra i bisogni degli eletti e i ragionamenti dei singoli governi. Su tutto questo l'Italia si presenta, oggi voteremo in Parlamento, la maggioranza ha presentato una mozione unitaria, ci presenteremo con un approccio critico, ma critico non per distruggere o per mettere veti o per bloccare il processo, ma per dire che forse tra quello che dichiariamo, le grandi ambizioni e la realtà dei numeri presentati in quel bilancio, c'è una differenza un po' sostanziale. Ministro, si discute molto del fatto che grandissime aziende, anche italiane, portino sempre più spesso la sede legale in Olanda oppure quella fiscale a Londra. Lei è il ministro per gli affari europei, ma come lo vede questo, diciamo, questa attrazione olandese di grandissime aziende che alla fine poi con la sede fiscale italiane rimangono solo virtualmente? Sì, non è una novità, sono le regole del mercato comune e quello che su cui anche la Commissione è chiamata a fare un cambio di passo, su cui noi stiamo insistendo molto, è soprattutto un livello di dumping fiscale e anche dumping sociale che sia cambiato radicalmente. Abbiamo tra i 27 alcune regole sulla base fiscale, ovviamente più convenienti per alcuni paesi contro altri. Io credo che questo sia uno dei temi su cui la Commissione è chiamata a una riforma, ma non per sviluppare una competizione al ribasso tra i paesi, ma per dare all'Unione Europea una base legale che sia differente. Io una cosa positiva che ho visto di questa nuova Commissione è iniziare a ragionare non solo di uno scontro o di soluzioni tra i 27, ma di ragionare come 27 paesi competono con il resto del mondo, perché oramai la competizione è tra grandi blocchi, tra grandi giganti, e forse inutile, come si dice, sviluppare guerre tra di noi, mentre quelle che sono le difficoltà che abbiamo oggi in termini di competizione, di concorrenza e anche di livello di abbassamento del dumping interno siano sviluppate con attori esterni. Forse è il caso di intervenire. La Commissione su questo ha dato segnali positivi. Grazie a Enzo Amendola, ministro degli affari europei, per essere stato con noi. Dobbiamo chiudere, siamo in buona chiusura. Buona giornata, grazie. Ministro. Buona giornata, ministro, e buon lavoro. Grazie. Allora, cara Maria, ci risentiamo domani alle 8:20, come sempre, già, ovviamente. Già. Grazie anche a Carmelo Lauricelli, regia, Giorgio De Luca, in assistenza in redazione anche Gloria Guerrera, Alessandro Marco Tulli, i nostri autori Margherita Ine e Francesco Ciaraffo. Abbiamo un filo più di tempo, La pagina Facebook di 24 Mattino, andate, cliccate mi piace, ci trovate la nostra diretta e ovviamente riceverete anche le notifiche quando siamo in diretta e l'email 24mattino@radio24.it se ci volete scrivere qualcosa di più complesso. Ci sentiamo domani mattina alle 6:30. Ciao. Ciao.